quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi? Lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché? Chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, non soldi, voglio dire che da noi ci sono gli onesti e da loro i ladri. Io voglio dire che noi i ladri li mandiamo a casa. Punto. Questo è il punto fondamentale. E con questa norma non sarà possibile né la prescrizione né anche delle forme di patteggiamento che secondo me sono un po' discutibili. E dindi, e tanti dindi che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! È il tassista Stefano Marcucilli che ferma Renzi. Oh, Matteo, mi suocero i soldi non li piglia, mi sa. Quanto c'ha? Renzi, quanto c'ha di pensione? 1100, no. Mi sa che allora è troppo alto. Salute, figli maschi, perché Stefano Marcucilli, tassista. Oggi al Corriere dice voto Movimento 5 Stelle e Renzi è furbissimo, più che fiorentino mi sembra un napoletano, ma ha fatto il gioco delle tre carte. Gli parlavo della pensione di mio suocero, a un certo punto mi fa: vabbè, ma di che squadra sei? Della Roma? Ah, sei contento allora che la Lazio ha perso la Coppa Italia con la Juve? Eh sì, e tu sei di Firenze, sei contento, il 6 Berlino e via, è finita nel calcio. E a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Il signor Stefano Marcucilli lancia una provocazione: se il premier mi incontra gli spiego i problemi di Roma. Tassista, un abbraccio a tutti i tassisti, ci seguono in tanti, tanti tassisti sono sintonizzati su Radio 24 e li salutiamo tutti, eh. Anzi, magari c'è anche il signor Stefano Marcucilli, magari sta in turno oggi, a quest'ora, al mattino. Sei in turno! Se sei in turno, Stefano, chiamaci, mandaci un numero al 349-238-6666. Ripeto, 349-238-6666. Stefano Marcucilli, tassista di Roma. E ci racconti un po' com'è andata con Renzi, Chi ha tanti soldi vive come un pascià. È venerdì. C'è un'esultanza tipo gol di Pippo Inzaghi in finale di Champions League con Liverpool da parte di Carmelo Lauricella in regia. Vedete come sono andato a ripescare l'Inzaghi che ci piaceva. Su questo è venerdì e questo è 24 mattino, c'è Lorenzo Nespoli anche in redazione e iniziamo con questo benaugurante soldi, soldi, soldi per tutti. Io vorrei dare soldi a tutti, votatemi e io do soldi a tutti. A chi non posso dare soldi, che ne so, un assessorato, un capo, un ufficio di dipartimento, di qualcosa, insomma. Piazziamo un figlio, un genero, un cognato, un nipote, votatemi! A che non lo so, sono candidato a niente, però voi votate, Allora... Intanto noi qua non abbiamo Renzi, ma abbiamo il Rienzi. Buongiorno, il quasi omonimo, abbiamo il nostro quasi omonimo, Carlo Buongiorno, Rienzi. Buongiorno, infatti mi chiamano tutti Renzi per sbaglio, vabbè. Vabbè, invece no, il quasi omonimo. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, come va? Ma è un'offesa dire da questo tassista, più che fiorentino mi sembra un napoletano? I tassisti, noi... abbiamo aderito al loro sciopero perché sanno il suo problema delle aggressioni, ma soprattutto della salute, perché soprattutto a Roma viaggiano su macchine, su strade con buche tali che i nostri consulenti medici hanno stabilito che praticamente possono portare a una lesione alla colonna vertebrale, cioè abbiamo una tale situazione di buche nella nostra città che è pericoloso soprattutto andare molto in bus purtroppo, anche se bisogna andarci perché è un disastro, e fare mestieri che ti costringono a camminare per tante ore sulla strada di Roma. È una bella causa, mi sembra giusto. No, ma però la domanda era diversa, no? Da napoletano. Scusa, qual era la domanda? No, se dire Renzi mi sembra troppo furbo, più che fiorentino mi sembra un napoletano, se è un'offesa o no. No. Va bene. Ma no, perché i napoletani sono effettivamente contenti di essere considerati furbi, perché diciamo che sbarcano la vita anche un po' con la furbizia, l'hanno sempre fatto. Anche questo in una città disastrata. E va bene, allora va bene così. Tra poco però chiederò a Renzi delle pensioni, le pensioni. Prima però apro il Parlamento perché voglio salutare la neodirettora, quasi direttora, semmai ci sarà più l'unità, perché qui il problema è questo. Chiara Geloni, ciao Chiaretta, come stai? Buongiorno, pensavo di votarti ma ora non ti voto più. No, adesso, perché ti ho piazzata l'unità. Ecco, e per esempio, ecco, votatemi, vi piazzo l'assessorato, eccetera, e Chiara Geloni la piazzo subito nel programma, direttore dell'unità, nel programma elettorale. Chiara Geloni, eccola lì. Come stai, Chiaretta? Tutto bene? Ah, benissimo. Però dice che pioverà. Dice che pioverà, sì. A Milano ieri grandinava, oggi forse ancora da brutto, e chi lo sa, insomma, non ti fermerai. A Roma fa caldo. Ma Chiara Geloni non sappiamo mai dov'è quando ci parla. Sono un po' così. È ballerina. Faccio perdere le mie tracce. E sta in case strane, sta in case forse non sue, non lo so. Sì, sembra una pezzente. No, una vera signora che gira e che... Vabbè, ma sei più a centro nord, centro sud? Sono a Roma, veramente. Ah, sei a Roma. sei a Roma, ecco. A casa sua a Roma. Allora, c'è questa questione delle pensioni. Vabbè, Renzi ha fatto un po', ha parlato col tassista, gli ha detto che 1.100 euro non li prende, evidentemente. Questo ha detto almeno il tassista, oggi viene intervistato dal Corriere della Sera. A proposito, una bella causa sulle pensioni, Renzi? Ma sì, l'abbiamo già lanciata, hanno aderito già migliaia di pensionati perché la Corte Costituzionale ha fatto praticamente una legge che è pubblicata sulla Gazzetta il 6 maggio, è entrata in vigore il 7 maggio. Ho capito, ma manco sanno se ricevono i soldi e già fanno causa. No, devono avere restituito quello che è una legge annullata, con effetto, si dice, ex tunc, quindi da allora, gli aveva tolto. Oh. Questo non c'è dubbio, quindi il governo con questo decreto legge ha disobbedito a una legge dello Stato. Quindi ha inottemperato una legge dello Stato. Boeri, il presidente dell'INPS, doveva il 7 di maggio restituire i soldi. Oh. Quindi c'è un obbligo che si è creato nel nostro ordinamento dopo il 7 di maggio, e noi lo faremo avere, vedremo che cosa dirà la magistratura. Mi sembrava strano, Chiaretta, che non ci fosse una causa del Codacons su questo, effettivamente. Ma ce ne saranno tante, figurarsi. Però Chiara, tu che sei renziana nel cuore, anche se non lo vuoi ammettere, ma scherzo ovviamente, mettiti un attimo nei panni di oggi Padoan fa un'intervista a Repubblica e dice la Consulta dice che difende la Costituzione, ed è vero, e che non devono fare valutazioni economiche. Però, come dire, hanno creato un buco da 20 miliardi e quindi forse dovrebbero porsi anche le valutazioni economiche quando fanno decisioni del genere, o no? Questa sentenza io penso che farà discutere per tanto tempo, anche perché poi diciamo è un precedente che può anche, lo dico, non è una minaccia al governo, ma insomma può anche avere delle occasioni di essere ripetuto in futuro. Però io penso che qui arrivino a conflitto dei principi che sono entrambi veri, cioè è vero che nella Costituzione è stato inserito peraltro poco tempo fa il principio del pareggio di bilancio, ma è vero che la Costituzione nella sua prima parte stabilisce quei diritti fondamentali che tutti dicono, anche i politici che vogliono riformare la Costituzione, dicono che non si toccano, per carità, che sono inviolabili, sì, che la nostra Costituzione è attualissima. E noi ci siamo abituati a considerare i diritti qualche volta dei privilegi, no? Nel dibattito pubblico si dice: ma questi diritti poi tolgono diritti agli altri, sono privilegi, sono cose che appartengono al passato. E invece la Consulta con questa sentenza ha stabilito che sono diritti e non sono privilegi. E questo a me sembra un principio molto importante. Capisco che in questo momento abbia creato un problema, qualche piccolo problema di conto, ai programmi dei conti che faceva il governo, ma mi sembra però importante stabilire che per far quadrare i conti non nessun governo, quello di oggi, quello di domani, un governo che a me piacerà può andare sopra dei diritti. È un principio che non è banale, credo che vada anche un po' oltre la Sono soldi della gente, sì, è quello che dice Rienzi, soldi che lavorando uno una parte li ha dati da mettere da parte per la vecchiaia. I diritti, comprare gli F-35 per far contenti gli americani non è un diritto, quello è una cosa che si può eliminare, ma invece l'anticipo che io ho dato da mettere da parte per la mia vecchiaia, ma come fai a prendertela? Cioè non è corretto, quelli sono super costituzionali, sono i principi fondamentali della Costituzione. Che bello, la pensate come Fausto Bertinotti, insomma. Poi forse il problema è anche che questi trattati europei stabiliscono delle cose che a volte possono anche confliggere con le costituzioni. Ho detto però che la pensate come Fausto Bertinotti, questa cosa non me ne sono accorta. È passata via. No, perché sentite, è tornato alla ribalta. Fausto Bertinotti. Non lo so, ha parlato, ha detto questo sulle pensioni. Vorrei ricordare solo in partenza che questa grande conquista della previdenza in Italia nasce con una idea, il retributivo, che è una bellissima idea, diciamo la verità, perché è di solidarietà intergenerazionale. Il sistema retributivo non è ingiusto, è picconato dal fatto che ha il 44% di disoccupazione giovanile. Questo piccolo dettaglio, ma come il retributivo è una questione di patto intergenerazionale? Cioè Fausto Bertinotti ha detto questo: cari giovani, siate felici se state pagando le pensioni ai vostri zii, nonni, genitori, siate felici. È un grande patto intergenerazionale, no? E quindi ci vorrebbe il retributivo, lui vorrebbe tornare al retributivo, Rienzi vorrebbe tornare, è un grande patto, no? Peccato che ci sia il 40% di giovani che non hanno un lavoro. Ecco, questo è il piccolo inghippo per Bertinotti. Piccolo inghippo, no? Il problema è che la maggior parte dei giovani adesso vengono mantenuti dai nonni ancora. Appunto. Se tu gli vai a tagliare le pensioni, non si rendono conto che la cosa peggiore è tagliare le pensioni. Sì, ma che sistema è Rienzi? È un sistema all'incontrario. Dovrebbe essere un sistema che garantisce le pensioni a chi è in pensione e fa lavorare e guadagnare bene i giovani, in modo che anche loro le avranno forse, no? Un domani. Sì, ma se non si produce reddito attraverso creazione di posti di lavoro con una politica di crescita, come si può dare lavoro ai giovani? Allora bisogna mantenerli a secchetto, purtroppo, con quello che gli anziani hanno messo da parte con il loro lavoro. Ma io allora, se tu arrivi e gli togli i soldi a questi, hai fatto una Ma nessuno vuole togliere i soldi, però si è fatto un discorso, e sono il primo che l'ho fatto da qualche giorno, a dire, ovviamente attirandomi tante critiche, eccetera, a dire: ma scusate, adesso è stato cambiato il sistema col contributivo. I giovani di oggi, se ci andranno in pensione, chissà, se avranno un lavoro, chissà. E allora non è che uno vuole togliere per il gusto di togliere, ma chiaretta, voglio dire, se fanno tutti i sacrifici, che male c'è se tolgono 100 euro di rivalutazione delle pensioni più alte, no? Proprio in nome di quel patto intergenerazionale per cui molti giovani la pensione, neanche quei 1500 euro li vedranno mai col binocolo. Ci sono altri metodi per fare dei giusti atti di solidarietà all'interno di una società. Ci sono le tasse, c'è la leva fiscale, c'è la spending review, che io credo che non possa produrre poi insomma, questi aspetti salvifici che a volte ci si, si aspetta, perché poi più di tanto se tagli togli diritti anche lì, perché non è che stiamo parlando di auto blu, stiamo parlando poi alla fine di ambulanze, se si va proprio. Però insomma, i metodi per tagliare, per fare, per chiedere anche alla collettività un sacrificio comune per affrontare un periodo economicamente pesante, ci sono diversi, e li stiamo anche sperimentando. Agire sulle pensioni in quel modo è sbagliato, non l'ho detto io, l'ha detto la Corte Costituzionale. Ma sì, e l'ha detto la Corte Costituzionale, allora basta, la sentenza è emessa. Però io qua voglio fare un contest subito con voi che siete notoriamente di centrodestra, seguaci di Silvio Berlusconi, soprattutto Chiara Geloni, ma secondo me anche Renzi. Allora è partito, chi è che ride? Chiara, stai ridendo? Io voglio fare la riforma della giustizia, era una cosa giusta. Io in quello sono un suo fan, cioè fare la responsabilità dei giudici, che adesso hanno fatto, ma molto molto parziale, era una cosa che si doveva fare da ecco anni. Qua l'avvocato Renzi sulla responsabilità del giudice, però un po' così, per una fiducia, però devono avere responsabilità, il contest è un altro, è partita ufficialmente, ha detto Berlusconi, ho in mente uno o due ereti. Una potrebbe essere Chiara, no, non Chiara Geloni, no, in questo caso, mi sento proprio di escluderlo, va bene, ti voglio bene, ma non ti metterei mai a capo. Io l'erede. Renzi fa l'erede, ma pare che i nomi che circolino per Silvio Berlusconi per la sostituzione sono al momento Toti, Carfagna oppure Tajani. Forza, Chiara Geloni, tra questi tre chi offre di più? Chi sceglieresti? Mamma mia, è la risposta. Devo scegliere io. No, non lo so, questi sono i tre che al momento circolano. Come... Ma è Marina? Non c'è più. Marina è la grande incognita. Marina Berlusconi, chi lo sa. Poi magari lui sceglie Tajani e poi un giorno prima dice Marina Berlusconi. No, è Marina Berlusconi. Quello è il coup de théâtre, lasciaglielo. Io penso che sia sbagliato, fammi rispondere seriamente a questa, se no, insomma, io penso che sia sbagliato cercare la soluzione nel nome di un leader che sostituisca Berlusconi. Qualcuno dovrà andare. Ha già detto farlo. Non faremo le primarie, e questo l'ha escluso. Mi pare una scelta saggia. No, scherzo. Però appunto, cioè, il problema è che si pensa di uscire dalla crisi profonda, che io rispetto anche del centrodestra, con un colpo di teatro inventato da Berlusconi che incorona suo erede una Carfagna o per Marina Berlusconi. E in questa situazione nessuno riuscirebbe a rimettere insieme il centrodestra, né Toti né Marina Berlusconi, perché non è una dinastia il centrodestra, certo. È una forza politica. Berlusconi, che è stato sempre mio avversario, ha fatto una grande operazione politica e ha parlato all'Italia dando un messaggio che io non condividevo, ma che era fortissimo e che lui inquadrava, diciamo, incarnava perfettamente per la sua personalità, per le sue idee, per il tipo di forze che ha messo in piedi. Mamma mia, che disamina! Ci vuole qualcuno, cioè, che faccia la stessa cosa. Successione di un vassallo, cioè, Silvio Berlusconi sarà lì a prendere nota. Intanto Silvio Berlusconi pensa questo in tutto ciò. La democrazia com'è in Italia? Siamo in una situazione di democrazia sospesa, nessuno può contraddirmi su questo fatto. Nessuno. Infatti noi ci fermiamo qui. Ma lui pensa di scegliere lui, però. Non contraddire. Il traffico. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate. 24 mattino. Vitalizi. Milan, la Fornero con una legge ha stabilito che le pensioni siano liquidate con il metodo contributivo. Benissimo, Cazzarola, perché non liquidiamo anche i vitalizi con tale criterio? Mi rispondi, per favore? Ciao Ale, ma tu non pensi che ci siano anche juventini assentisti? Io per esempio, che sono di Roma e a Roma, e pensa quante ne debba sentire. Ora, anche sentirne da te, per radio, eccetera, uffa, allora ho pensato, sono proprio masochista a seguirti. Milan, non ti vuoi presentare se la Juve vince la Coppa? Ma quante cavolo di scuse devi avere per non lavorare, Milan! Io mi meraviglio ancora una volta di come fai a essere in giro un personaggio come Formigoni e fare quello che ha fatto all'aeroporto. Signor Milan, tu devi far vincere la Coppa alla Juventus e dopodiché ti facciamo cavaliere di gran croce dello sport italiano, eh? Ti facciamo fare un dirigente alla Juventus a Torino, a fianco chi là, Andrea, come si chiama? Andrea Agnello. Ciao Milan, ti sembra un babà, ciao. Io ho detto che se la Juve fa il triplete non mi presento per una settimana in onda, peraltro, non so, tu condividi, Chiaretta? Sì. Io voglio esprimere solidarietà a tutti gli juventini di Roma e in particolare alla Chiara signora Geloni, che ha telefonato. È vero, anche tu sei juventina, è vero. Certo, mamma mia, certo. Anche Maria di Nolf, io sono circondato a juventini. Rienzi, chi tieni di calcio? No, io un po' la Salernitana, mo però. No, mo la Salernitana è finita, che... finita nell'inchiesta. No. Che si è comprata la partita. Poi ti devi fare causa. Esatto, sì, abbiamo organizzato per tutti i tifosi l'azione di risarcimento. Eccola, Rienzi si è fatto causa. Alla fine, beh, facendo causa a tutti, è finito che Rienzi, da tifoso della Salernitana, di fatto si è fatto causa. Perché. No, vabbè, ma no, io voglio bene agli juventini, dai, quelli che mi dicono masochisti, ma su. Ma non siete contenti di vincere? Voi rivaletevi così, cioè su di me, e state vincendo tutto, che cosa volete di più? Mamma mia, manco li puoi pigliare per il culo, perché si arrabbiano. Allora, però c'è un idolo, è un idolo indiscusso, è un idolo di queste comunali, è un idolo, avete presente Gerardo Bevilacqua da Cerignola? Chiara, forse te l'ho fatto sentire anche l'altra volta, non te l'ho fatto sentire, non c'eri. Mi sembra di no. Ma dai, è il candidato che ha spaccato una sedia in testa a quello, no, al suo collaboratore che gli ha organizzato un banchetto, ma c'erano poche robe da mangiare. Perché non me l'hai fatto sentire? E allora c'è questo video, fa i comizi in cerignolese stretta, è un mito assoluto, fa finta di piangere. Senti qua, bevi l'acqua. Lo vedo molto emozionato, sta piangendo, sì. Bevi l'acqua. Ci tiene molto al popolo, ci tiene molto alla città. Va bene. Stanno morendo tanti bambini. Non ce la faccio più. In bocca al lupo, bevi l'acqua. Non ce la faccio più perché... campagna elettorale. Non ce la faccio più perché, dottore? Di vedere tante cose brutte. Però io sono forte. Sono forte, sano e capacità di combattere fino alla morte. C'è questo col giornalista, no, dramma, si sta candidando, non ce la fa più. Ancora, bevi l'acqua. Il signor Vitulli mi ha parlato male di me. Il suo avversario. Paolo Vitullo, candidato del centrodestra. Sì, sì. Ma no, perché voglio offendere, lui è un filo e un fascista. Così intanto e poi ancora contro il giornalista, eh? Ma che cosa vuol Tufariello? Tufariello oramai è passato da morte. L'abbiamo capito, Tufariello. Tu vedi, fu un giornale scritto chi ricco. Non vedo un giornale chi povero. Fu scritto chi ricco, non chi povero. E io dico una cosa, caro Tufariello, lascia tutte cose. Fai fu giornalista, a chi cosa puoi fare? Io chiedo un aiuto Rienzi, cosa ha detto? Dai, dal cerignolese stretto, ce l'aveva con un giornalista. Non l'ho capito. Cosa scrivi con le orecchie? Cosa scrivi? Cosa ha detto Chiara Geloni? Io ho capito solo giornalista. Solo quello ho capito, però penso che i cerignolesi invece... avranno afferrato avranno, per esempio ce l'ha contro la sporchicchia e l'inceneritore in città. Immondizia, il ciclo dei rifiuti lo chiudono con l'inceneritore. Tu sei contrario? Sì, sono contrario alla sporchezza, come si dice, alla sporchizia, che so che compro, sì. Perché voglio un paese meco, sia pulito, ci sarà finito. La sporchiccia. Cos'è? Vabbè. Gerardo Bevilacqua, candidato Chiaretta Geloni. Sono belle queste elezioni. Amiche lettrici e amiche lettori. Comunque, qualunque chi che sia, nella misura in cui progressivamente e spezzatamente, se mi rivolterete, ci sarà. Più pelo per tutti. Questo non è lui, però. No. Questo è Centola qualunque, che casualmente non è stato messo qui perché non lo so, Carmelo Lauricella ieri ha rivisto il film, non c'era alcuna associazione, assolutamente. Non sia mai. E qua Chiara, allora noi ci dobbiamo salutare. Chiara Geloni, Carlo Rienzi. Prossima causa, Carlo Rienzi, su cosa siete concentrati? Ma è vero che avete fatto causa a quella bambina, cioè al pasticcere che ha fatto la torta di Little Tony? Sì, perché l'ha fatta addolorare molto, sbagliato. Invece sai, Chiara, che c'era una bambina di 9 anni che voleva la torta con Little Pony. Sì, di questo abbiamo parlato insieme. Esatto, e il Codacons ha fatto causa. Ma avete fatto causa veramente al pasticcio? Ma sono cose importanti. Chi la farebbe una causa così piccola? Sono il Codacons. Ma certo. I diritti sono importanti. Ma certo, la bambina di 9 anni ha avuto il compleanno sfregiato, e allora difendetela. E che gli diamine, insomma. Va bene, vi ringrazio, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci. Dopo la rasoiata di Gilbert ieri a Vicenza, oggi tornano protagonisti velocisti al Giro d'Italia. Sentiamo. Si riparte da Montecchio Maggiore con un Alberto Contador sorridente e un Fabio Aru parecchio adombrato. Ieri il sardo della Stana ha vissuto una giornata non propriamente felice. Nell'ostico arrivo sul Monte Iberico di Vicenza, Contador ha rosicchiato 14 secondi al corridore sardo, che è così scivolato a 17 dalla maglia rosa. Sulla carta la 13ª tappa di oggi è una pura formalità riservata ai soli velocisti. Sulla carta, e guardando la cartina, oggi nella Montecchio Maggiore Jesolo di 147 km non dovrebbe succedere assolutamente nulla di rilevante. È una delle ultime tappe riservate agli uomini jet, l'ultima eccezione fatta, quella di Milano tra 10 giorni. Non solo colle, un solo cavalcavia, niente di niente. I pericoli maggiori vengono dal cielo, che minaccia pioggia. Occhio quindi alle rotatorie ed ossi e agli sparti traffico che i corridori dovranno aggirare o superare nell'attraversamento delle città, che troveranno lungo il percorso liscio come il tavolo di un biliardo. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Montecchio Maggiore. Voci dal giro, in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente. Vai su ingiroperlavoro.it. Puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, le 7:18 minuti ed è venerdì, forza, animo, dai, che per molti è l'ultimo giorno di lavoro della settimana, me compreso, anche Carmelo Lauricella, forse no, però è venerdì. Allora si chiude, tra l'altro, la 107ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, ufficialmente, e non credo che oggi succederà qualcosa per cui le province verranno abolite. Confidiamo nella settimana numero 108 e vediamo. Intanto noi parleremo di quello che sta succedendo con l'avanzata dell'ISIS in Siria. Avremo ospite ai nostri microfoni Karim Franceschi, chi è un 26enne che da Senigallia, Italia, è partito e è andato qualche mese fa a Kobane per combattere al fianco dei curdi contro l'ISIS, fucile in mano. Avremo anche ospite Harry De Luca, lo scrittore intellettuale, colui che è sotto processo perché è accusato di istigazione a delinquere per aver scritto "La TAV va sabotata". Avremo ospite anche, per la vicenda ISIS, Paolo Mattie, docente alla Sapienza, archeologo di fama mondiale, che ci spiegherà che cosa vuol dire Palmira, questa città che è stata conquistata dai fanatici islamici. Ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 22 maggio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre su corruzione, falso in bilancio, ora le pene saranno più severe, l'approvazione definitiva alla Camera della legge sui reati contro la pubblica amministrazione, anche la Stampa apre su questo, corruzione, pene più severe, ritorna al falso in bilancio, e per il Messaggero corruzione, pene più severe. Repubblica, un'intervista al ministro dell'economia Padoan, il titolo di prima pagina è «La consulta doveva valutare i costi della sentenza sulle pensioni». Per il Corriere della Sera l'ISIS avanza con stragi e distruzioni, così l'apertura, così Avvenire, morte e distruzione a Palmira, l'anticiviltà. Mentre Libero il Giornale continua nella campagna dei mangioni, oggi definiti così, prima magnoni, anche papponi, cioè i vitaliziati, agli onorevoli banchieri, super pensioni regalate, questo è il titolo di Libero, mentre il Giornale, intellettuali e magistrati, ecco le pensioni gratis. Il Fatto Quotidiano invece, antimafia, battaglia su De Luca, sempre la vicenda dei cosiddetti impresentabili, mentre Puglia, voti comprati per 30 euro, questa è la denuncia. Voglio partire però da che cosa? Oh mamma mia, altri guai per Roberto Formigoni. Questo a leggere i giornali, il Corriere della Sera e Repubblica, ecco qua, Corriere della Sera, pagina 23, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, viaggi, un nuovo pagatore per Formigoni. Contanti stimati in 447.000 euro. Un orologio bulgari, viaggi in Sudafrica e Croazia, il noleggio di un aereo privato per la Sardegna, l'affitto di due elicotteri per San Moritz e la Valtellina. Quando non poteva più contare su Pierangelo D'Accò, l'allora presidente della Regione Lombardia Formigoni avrebbe iniziato a ricorrere a un munifico finanziatore di riserva, Massimo Gianluca Guarischi, ex consigliere regionale di Forza Italia. È questo ciò che la procura contesta al senatore Formigoni, presidente della Commissione Agricoltura, nell'avviso di conclusione indagine su un'ipotizzata corruzione ulteriore rispetto a quella per la quale Formigoni è già a processo. Indagine che incrimina per abuso d'ufficio con l'ex direttore generale della Sanità Lombarda Lucchina, anche l'ex sottosegretario alla presidenza regionale Alli, oggi deputato e tesoriere del nuovo centrodestra. Per Formigoni è lo sviluppo di quanto affiorava già nella sentenza che nel novembre 2014 aveva condannato in primo grado Guarischi. Si parla dunque di viaggi, spese, il viaggio in Sudafrica dal 27 dicembre 2011 al 4 gennaio 2012, valore da 55.000 euro, di cui Guarischi sosteneva quota parte riferibile a Formigoni per 7.000 euro. Oppure un viaggio in Croazia dal 23 al 30 giugno 2012 e anche dal 28 agosto all'8 settembre 2012. Pagamenti per Formigoni, secondo la procura, da 11.900 euro la prima occasione, 17.900 euro e così via. L'elicottero per la Valtellina 8.000 euro, un aereo privato per Olbia 11.880 euro, l'elicottero per San Moritz 6.000 euro. Queste sono le accuse per Formigoni, anche Repubblica, vacanze, voli, orologi, accusa bis a Formigoni. I regali erano tangenti, questo si legge nel titolo di Repubblica. A proposito di guai giudiziari, l'altra notizia che riguarda invece una vecchia vicenda, quella della Lega, gli investimenti nei diamanti, vi ricordate? Ebbene, sappiate che Umberto Bossi insieme all'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito andranno a processo, inizierà il 23 settembre il processo a Umberto Bossi e Belsito, l'accusa è riciclaggio e truffa ai danni dello Stato. E il Secolo XIX va a intervistare Francesco Belsito, che nel frattempo si è riciclato a barista. Gestisce un bar, il bar Balilla, nel cuore di Genova, e intervistato da Bruno Viani. Potete leggere l'intervista a pagina 3. Eccolo qua. Ho agito come ha sempre fatto il mio predecessore tesoriere Balocchi. Comunque, il processo, sono sereno. Risponde Belsito. Sono sereno perché ho semplicemente continuato a fare quello che è sempre stato fatto nel movimento, quello che faceva il tesoriere prima di me, Balocchi. Balocchi, che nel frattempo è morto nel 2010. Non ho mai più rivisto Bossi. Lui alle udienze preliminari non è mai venuto. e l'investimento in diamanti, ma guardate che se ne parla per una stupida strumentalizzazione, non c'è alcun articolo di legge che obbliga a investire in botto o CCT piuttosto che in modi diversi, e i diamanti sono semplicemente una forma di investimento che può rendere bene, e hanno reso certamente, così come ha reso l'oro, così i dollari americani, australiani, le corone norvegesi hanno portato al partito 52.000 euro. Insomma, alla luce dei risultati, sono stato molto bravo. Così si autoassolve Francesco Belsito. E qualcuno dice che lei è stato così bravo che le è rimasto in tasca parecchio denaro, vero? No, risponde Belsito. E a Bossi e alla famiglia io non faccio il giudice. E poi l'inchiesta riguarda la truffa ai danni dello Stato, l'appropriazione indebita non è in discussione, e qui noi dimostreremo che i 40 milioni di euro percepiti dalla Lega tra il 2008 e il 2010 sono rimasti nelle casse del partito. Vabbè, Belsito, per concludere, il bar va bene? Almeno il bar? La crisi si sente, han reso più i diamanti alla Lega di quanto il bar renda oggi a me. Così Francesco Belsito, intervistato dal Secolo XIX a pagina 3. Oh, come detto, Libero, il giornale, continua una campagna dei vitalizi, vitalizi. Ma c'è una novità, al di là dei nomi che potete ancora raccogliere e leggere oggi sui giornali di coloro che hanno versato magari 60, 70 mila euro, hanno fatto una legislatura, ora hanno già ottenuto 500, 600, 700 mila euro come vitalizio. Ma sui vitalizi la notizia più interessante ce l'ha il Corriere della Sera, pagina 11, Lorenzo Salvia, vitalizi nel mirino, attenzione! Perché nel decreto che il governo ha appena fatto e che riguarda il rimborso delle pensioni, che arriveranno ad agosto ad alcuni, c'è anche nell'articolo 1 qualcosa che riguarda i vitalizi. Ma come? Abbiamo sempre spiegato che l'indipendenza del Parlamento impedisce al governo di intervenire sulla modifica della legge dei vitalizi. È vero, infatti non si modifica la legge dei vitalizi, ma... cosa succede? Succede che all'articolo 1 di questo decreto si stabilisce che se una persona ha sia una pensione che un vitalizio, o da ex parlamentare o da ex consigliere regionale, e se la somma dei due assegni supera i circa 3.000 euro lordi al mese, lo stop alla rivalutazione riguarderà sia l'assegno dell'INPS, sia l'assegno da vitaliziato che arriva o dal Parlamento o dal Consiglio regionale in questione. Questo perché le nuove regole che eliminano la rivalutazione al di sopra dei 3.000 euro lordi si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Così si legge nel decreto. Quindi è vero, la legge non può toccare direttamente i vitalizi, la materia è di appartenenza di Camera e Senato, ma qui si interviene sul cosiddetto cumulo, cioè sulla somma di vitalizio e pensione, mettendo le due voci sullo stesso piano giuridico. Reggerà di fronte a eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale? Non si sa, però il Corriere della Sera racconta che in questo decreto c'è anche di mira il vitalizio per chi cumula insieme a una pensione normale il vitalizio da ex parlamentare o ex consigliere regionale. Ma siamo all'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante. E l'articolo in questione, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, lo trovo sul Giorno, a pagina 16, dove Gilberto Dondi racconta una vicenda veramente kafkiana che ha coinvolto l'ex direttore del Resto del Carlino, Visci, Pierluigi Visci, l'incredibile storia di un necrologio diffamatorio e la sentenza surreale 8 mesi di carcere al direttore del giornale. Succede che appare... questo necrologio sul giornale, muore un noto medico bolognese e l'ex genero fa pubblicare sul Resto del Carlino questo necrologio: ti raccomandiamo, signore, l'anima fedele del nostro fratello, nella tua clemenza cancella le spietate barbarie, le grandi e crudeli cattiverie contro persone deboli che non si potevano difendere, che ha commesso per la fragilità della condizione umana. Apriti cielo, la famiglia presenta denuncia, la procura accusa accusa il genero di diffamazione nei confronti del defunto e il direttore viene accusato di omesso controllo perché non ha controllato un necrologio nel quale c'era un'ipotesi diffamatoria che è stata stabilita più tardi. Una cosa che ha dell'incredibile. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Alessandro Milan è l'impresentabile dell'informazione. Eh beh sì, l'impresentabile dell'informazione. Mi piace questa, caro ascoltatore. Allora, ci sono ancora tanti articoli per risolvere il giallo su questo marocchino Abdelmajid Twil, che è stato arrestato in provincia di Milano e che viene accusato a Tunisi di essere uno degli terroristi che ha colpito al Bardo il 18 marzo scorso. Ma già il sindaco di Trezzano qui ieri di buona mattina alle 8 e un quarto ai nostri microfoni ha anticipato a tutta Italia che in realtà lui era probabilmente a scuola, se non altro era a scuola il 19 marzo, il giorno dopo l'attentato. Che ha fatto? Ha fatto l'attentato e poi è fuggito in fretta e furia, pare francamente poco credibile. Anche i magistrati confermano, era in Italia. E allora Carlo Bonini, pagina 6 di Repubblica, la storia della cattura del giovane marocchino Twil è un pasticcio che racconta l'ultimo azzardo del ministro dell'interno Alfano. È una verità presentata in modo assai generico e soprattutto a metà ancora ieri in Parlamento. Un pasticcio lievitato sulla base di un arresto dalle basi provatorie ancora molto scivolose e opache, ma rapidamente venduto al mercato della paura della campagna elettorale nell'imbarazzo degli apparati della nostra sicurezza nazionale. Secondo quanto riferiscono 5 diverse fonti all'interno dell'intelligence e dell'antiterrorismo, non c'è stata alcuna indagine, nessuna pista è stata battuta, semplicemente perché nessuna pista esisteva. Abdelmajid Twil è stato arrestato sulla base di 10 righe inserite in fretta e furia nel sistema Interpol dalle autorità tunisine il 19 maggio. C'è tutta la ricostruzione. Addirittura c'è un'ipotesi che, come scrive Bonini, ghiaccia le vene. Ed è questa. L'ipotesi è che siccome Tunisi ci aveva avvertito dicendo guardate che forse in Italia c'è qualcuno legato a questo attentato, siamo noi italiani, e si chiama questo qualcuno, si chiama di cognome Twil, allora siamo noi italiani che abbiamo mandato a Tunisi la foto dicendo noi abbiamo un Twil qui, è per caso questo? Pare che Tunisi ci abbia restituito la foto e che questa restituzione semplice della foto sia stata scambiata, come dire, sì è lui. Questa è l'ipotesi da scenario quasi dilettantesco che è raccontata da Carlo Bonini a Repubblica. Cioè noi abbiamo detto eccolo qua, noi abbiamo un Twil, e loro ci hanno rispedito dicendo ecco qui il vostro Twil. Ah ecco, quindi è lui Twil. Cioè, sarebbe veramente da livelli un po' dilettanteschi, per non dire altro. Il secolo XIX invece a pagina 5 ha un'altra ricostruzione, e cioè c'è una foto del presunto attentatore che è diffusa da un quotidiano tunisino ed è associata al cognome Twil. È una persona totalmente diversa, non solo per i baffi ma proprio anche per la fisionomia. E allora l'ipotesi è questa, e cioè che l'attentatore del Bardo abbia utilizzato un passaporto falso e l'identità del Abdelmajid Twil che è stato fermato a Milano. Potrebbe esserci anche questa, come dire, il giallo del passaporto scomparso, rubato, venduto o solo smarrito. Il vero attentatore potrebbe avere assunto l'identità di Twil che è stato fermato a Milano. In ogni caso, lui era qui il giorno della strage, questo è abbastanza certo. È anche certo che è un immigrato clandestino, visto che è stato aggiunto a un decreto di espulsione. Questo nulla, nulla lo toglie, lo cancella. Certo, è stato fatto passare forse in maniera un po' esageratamente veloce per terrorista, con tanto di foto su tutti i giornali. Di certo è un immigrato irregolare sul nostro territorio, su questo non ci piove. Vabbè, ma vediamo più alle cose italiane. Voglio partire da Repubblica, dove c'è un'intervista al ministro dell'economia Padoan, perché torna sulla questione delle pensioni e non solo, parla anche della Grecia, del rischio Grexit, cioè dell'uscita della Grecia dall'euro. Padoan viene intervistato da Fabio Bogo e Federico Fubini a pagina 2 e 3 di Repubblica. Intanto non si dà voti. Lei, da ex economista dell'Ocse, che voto darebbe al ministro Padoan, cioè a se stesso? Ma io preferisco non darne a me stesso, di solito i voti da professore li do agli altri. Comunque parla della consulta e la decisione sulla la famosa sentenza sulle pensioni. Ecco, abbiamo provveduto a tamponare la falla. Gli arretrati da corrispondere ci costano 2,2 miliardi. Però vorrei fare una considerazione. Prego, ministro. Ecco, la Corte Costituzionale sostiene di non dover fare valutazioni economiche sulle conseguenze dei suoi provvedimenti e sostiene anche che non c'era una stima dell'impatto, che non era chiaro il costo. Ora, non so chi avrebbe dovuto quantificarlo, ma rilevo che in un dialogo di cooperazione tra organi dello Stato indipendenti come governo, corte, ministri e avvocatura sarebbe opportuna la massima condivisione dell'informazione. Tutti lavoriamo per il bene dello Stato. Non dico, aggiunge Padoan, che bisognerebbe interagire nella fase di formulazione della sentenza, perché l'autonomia della Corte è intoccabile. Ma se ci sono sentenze che hanno un'implicazione di finanza pubblica, deve esserci una valutazione dell'impatto, anche perché questa valutazione serve a formare il giudizio su principi dell'equità. E poi, vabbè, la questione è, scusi, ma perché non tagliate la spesa? C'è la spending review, i tagli saranno quest'anno di 10 miliardi, ci sono una quindicina di capitoli, ma è presto per parlarne. Abbiamo fatto riunioni con il responsabile della spending review, Yoram Gutgeld. Poi parla di Grecia e dice Padoan, visto che si discute oggi al vertice di Riga dell'Europa, se la Grecia esce dall'euro, possibili shock anche per noi. Il problema è nel medio periodo. Se ci fosse una Grexit, cioè se Atene abbandonasse l'euro, l'unione monetaria diventerebbe un animale diverso, un insieme da cui si può uscire, non sarebbe più irreversibile. E questo, sempre nel medio periodo, aggiunge una possibilità a quelle che esistono attualmente. Questo impatterebbe sui titoli di Stato italiano, chiede Repubblica. Questo cambierebbe i prezzi laddove ci fossero tensioni. E se entriamo in un contesto nel quale c'è una possibilità in più, quella dell'uscita dall'euro, il sistema diventa in generale più fragile e meno capace di assorbire gli shock. E parla anche di altre cose, di banche, insomma una lunga intervista al ministro dell'economia Padoan che trovate su Repubblica, pagina 2. E tre. Intanto in tutto questo è stata approvata in via definitiva la legge anticorruzione, il DDL anticorruzione, pene più severe, ritorna al falso in bilancio, tutti i dettagli molto precisi sono analizzati con ogni singolo provvedimento o parte del provvedimento e la relativa efficacia media, alta o bassa. Sul Sole 24 Ore da Donatella Stasio. Vero Mauro Meazza? È vero, confermo, buongiorno, confermo. Alessandro Milan, molto buongiorno, bene. Infatti c'è, come appunto si può apprendere dalle nostre pagine 2 e 3, c'è questa serie di schede dove ti spieghiamo come si modifica, perché non è solo il fatto del superamento delle soglie, ma anche la distinzione tra quotate e non quotate, quindi sì. con una notevole severità sostanzialmente. C'è anche uno specchietto che puoi mostrare agli ascoltatori, pagina 2, quello che fa, presenta il confronto sul falso in bilancio per le società quotate negli altri paesi. Perfetto. Da cui si... Ah, è molto chiaro, che, non è chiaro. Infatti si vede chiaramente che noi abbiamo sposato una linea particolarmente severa. Vabbè, ma su tutto questo, diciamo, sulla pagina 2 ti segnalo poco più avanti il problema della Grecia. Mm-hmm. Che come dire, comincia a diventare un pochino scottante, infatti anche l'editoriale nostro è dedicato alla materia. Pare che abbiano 800 milioni in cassa e zero e niente. E più 2 euro che gli dai tu. Più 800 milioni e 2 euro, sì. Puoi devolvere i tuoi 2 euro, va bene. Se tu metti i tuoi 2 euro, magari io ne metto uno. Chiamo Varoufakis adesso. Così, ecco. Scusa, a proposito di pensioni, tra l'altro, volevo dirti, il decreto è arrivato in Gazzetta Ufficiale, un giornale che... Sì. Non è da rassegna stampa, no. Naturalmente, ma che ha la sua importanza, perché sta a significare che entra in vigore, quindi entra in vigore questo meccanismo abbastanza articolato di rimborsi, ma se leggi oggi Sole 24 Ore Gianni Trovati ti spiega. Tra l'altro volevo dirti, c'è anche, sta tornando un po' in auge questa ipotesi di tiri prima ma ti do un po' meno soldi, non era uno scioglilingua questo tiri, ma era, ne scriviamo oggi appunto su Sole 24 Ore, con, potrebbe essere l'idea di ritirarsi tutti col contributivo, cioè si passa a un sistema un po' peggiore di calcolo delle prestazioni, ma ti spieghiamo tutto a pagina 8, non voglio dirti altro. Ottimo. È importante invece che tu sappia che abbiamo il waiver. Ah. Vabbè. Allora ti serve per far ritornare dall'estero i due urini, perché è quella. Sarebbe andate alla Grecia, che... già li facciamo tornare subito. Diamo la no, Grecia. Devi far tornare dall'estero con, per con l'elastico. Grecia, infatti. Ah. Si chiama waiver, però guarda che è importante, perché per il rientro dei capitali è l'autorizzazione per gli intermediari finanziari. L'ho visto, dove l'ho letto secondo te? Sulle pagine di finanza, immagino. No, l'ho letto sulle pagine di norme e tributi. Ovvio, infatti volevo dire su norme e tributi. Ah, era ironico, non avevo colto l'ironia, mi scuso. E poi invece c'è un annuncio importante. Dal 1 luglio il DURC... Sì, la dichiarazione unica, la dichiarazione di regolarità contributiva, ma è importante perché serve poi per tutti i contratti anche con il pubblico. Il DURC diventerà online, quindi tutto digitale. Passiamo tutto al DURC digitale dal 1 di luglio. Tu dirai oggi proprio. Momento di sigle così, d'altra parte tu devi andare a parlare di ISIS, forse una sigla che fa persino più paura del waiver o del DURC. Senti, se fai una casa sull'albero di 70 metri quadri stai attento, perché te la segnalano come abuso edilizio. Va bene, un abuso in più in Italia, cosa vuoi che sia? Non so se ti è sfuggita questa notizia riguardo un personaggio noto, ma c'è sul Sole 24 Ore, nelle pagine norme e tributi, una casetta sull'albero di 70 metri quadri, dove potrei anche ritirarmi adesso per ascoltare naturalmente le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il Bonobox dell'informazione. Ah, quante volte tutte le volte mi aprite una ferita al cuore, no? Questa cosa. No, perché ancora mi guarda, ve l'ho detto mille volte, il mio sogno da piccolo era diventare Bono nel senso del cantante degli U2, non un cantante a caso, cioè non è che volevo fare il cantante, volevo fare Bono, che è diverso. E vabbè, scusate. Allora, gli immigrati e la questione dei migranti è un tema sempre ben presente sulle pagine dei giornali, perché intanto si registra, secondo il Corriere della Sera, lo sfogo di Renzi. Inaccettabili i dubbi dei leader europei sui migranti. Se i contrari al piano europeo aumentano, salta tutto. Nella retroscena di Marco Galluzzo a pagina 9 dice Renzi ai suoi collaboratori: nelle prossime settimane vedremo se è tutta fuffa o se c'è qualcosa di concreto. Il rischio, appunto, è vero che deve essere presa a maggioranza questa decisione sulla ripartizione delle quote, ma Gran Bretagna, Francia, Spagna, Ungheria, altri paesi già si sono mostrati contrari, e quindi Renzi, che appunto è a riga per questo vertice sull'Unione Europea, punterà anche a cercare di convincere a tornare indietro. Certo, non ce la farà sicuramente con Cameron, Gran Bretagna, uno dei più duri nei confronti dell'immigrazione clandestina. Sentite che cosa scrive La Stampa, pagina 7. Il pugno duro di Cameron, via le paghe ai clandestini. Il titolo è un po' ambiguo, ma vuol dire questo: per contrastare l'immigrazione irregolare, in Gran Bretagna hanno deciso di considerare le paghe in nero, evidentemente in nero per forza perché sono irregolari, ai migranti clandestini, equipararle ai ricavi provenienti dalle attività criminali, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della persecuzione delle leggi. Quindi il pugno duro di Cameron, leader britannico, vuole inasprire le norme per cacciare gli illegali e rilancia la sfida all'Unione Europea: taglieremo il welfare per tutti gli stranieri. Questa è la Gran Bretagna di Cameron, la grande democratica Gran Bretagna di Cameron. Ecco come agisce per contrastare l'immigrazione clandestina. Tra l'altro, sull'immigrazione c'è un bel reportage di Niccolò Zancan che vi segnalo sulla Stampa pagina 6. Niccolò Zancan va a bordo del treno che tutti i giorni parte da Bolzano e passa la il confine, passa il Brennero, attraversa l'Austria per arrivare a Monaco di Baviera. Ogni giorno su quel treno salgono degli immigrati irregolari che sono sbarcati a Lampedusa, che fortunosamente in qualche modo hanno fatto tutta l'Italia da sud a nord e hanno questo sogno, quello di attraversare il confine, perché molto spesso l'abbiamo detto, questi che arrivano non è che vogliono stare in Italia, molti hanno parenti sparsi per l'Europa. Qual è però il problema? Il problema è che per il trattato di Dublino, gli accordi di Dublino, se viene presa loro l'impronta digitale qui in Italia, ecco che devono rimanere fino a identificazione definitiva nel paese dove è stata presa l'impronta. E racconta Nicolò Zancan i tentativi di fuga, i respingimenti dall'Austria, la disperazione di chi dice mi hanno preso l'impronta e quindi sono disperati. Effettivamente Zancan racconta, è vero, i poliziotti quando prendono l'impronta, se ti trovano anche in Germania, controllano l'impronta e allora sì, sei fregato, caro immigrato, perché ti rispediranno in Italia. Il titolo del reportage è sul treno dei migranti in fuga dall'Italia. Se ci prendono le impronte, siamo finiti. A Bolzano centinaia di profughi sognano di passare in Germania, ma quelli che vengono identificati non potranno chiedere asilo là. Leggetelo a pagina 6, più che tanti discorsi vuoti, è diciamo l'immigrazione vissuta guardandola in faccia. Noi parleremo anche di quello che sta succedendo in Siria, la tragedia dell'ISIS che avanza, è stata conquistata Palmira, c'è da dire che sembra quasi che facciano più notizia e facciano più scalpore le statue distrutte. Io amo l'arte, amo la storia come tutti, piuttosto che le teste decollate dei siriani o le persecuzioni nei confronti delle persone, per carità, si può ragionare, mettere tutto insieme e difendere le persone e difendere l'archeologia e la storia. Comunque l'ultimo orrore viene da Palmira, dove sono stati decapitati soldati siriani e dove sono stati anche distrutti alcuni reperti. Avremo anche l'archeologo Paolo Mattia che ci spiegherà che cosa è Palmira dal punto di vista storico, e avremo ospite, lo ricordiamo, Karim Franceschi, un ragazzo che è andato a combattere al fianco dei curdi per fermare l'avanzata dell'ISIS. Allora, vi segnalo per la cronaca l'ennesimo urlo di disperazione dei genitori del ragazzo Domenico Mauro Antonio, che è morto a Milano in una gita, durante una gita scolastica, in circostanze non chiare, perché c'è un'omertà totale da parte dei suoi compagni di classe. È volato giù da una finestra di un hotel e i genitori di Padova, soprattutto la madre, intervistata da Lorenzo Sani a pagina 5 del Giorno, dice ancora basta vigliaccherie, dite la verità. Si appella ai compagni di classe, vigliaccherie, coscienze sporche, le prime cose che mi vengono in mente è questo, non vedo altro, è il motivo per cui nessuno racconta che cosa sia successo quella sera. Si parla di alcol, si parla di scherzi, si parla di nonnismo, di bullismo, basta reticenze, questo urla la madre ai compagni. E tra l'altro è interessante, il Giornale fa una pagina, firma Luca Doninelli, proprio su questo tema. E questa domanda, ma chi ha insegnato l'omertà agli amici dello studente morto? Tutti indignati per i ragazzi che non spiegano cosa sia successo, ma la colpa, scrive Doninelli, è anche nostra, nostra come genitori, nostri come educatori, nostra come valori, evidentemente, o disvalori di omertà che abbiamo insegnato ai nostri ragazzi e che questi ragazzi hanno fatto propri. Certo, davvero, è incredibile che nessuno racconti che cosa sia successo quella sera. Siamo al momento conclusivo? Sì, vedo qua Lorenzo Nespoli, quindi se siamo in conclusione, tutti questi articoli non ce la faccio a leggerli, eccoli qua, li facciamo vedere in diretta su Periscope, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ancora Maria Elena Boschi, basta, mezza pagina sulla Stampa da parte di Mattia Feltri per raccontare che lei, bella, solida e allineata, è il nuovo marchio del PD. C'è anche questo giudizio di Olivier Piero Toscani che dice è una mela fresca e piacevole, per questo è il marchio del PD. Ma basta! Ma chi se ne frega! Sì. so che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film e sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milano. Devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 8:21 minuti in punto. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Vogliamo parlare di quello che sta succedendo in Siria, dove i resoconti dei giornali, i resoconti delle cronache internazionali raccontano di uno Stato islamico e i suoi miliziani che vanno avanti, conquistano città dopo città, hanno conquistato anche Palmira, una città che non è lontana dalla capitale Damasco, e lo hanno fatto uccidendo, decapitando, questi sono i resoconti dei giornali, si racconta dei soldati siriani decapitati e minacciando anche di distruggere le straordinarie ricchezze storiche e archeologiche di quella città, straordinarie ricchezze che conosce perfettamente una persona che è già stata nostro in microfono, il professor Paolo Mattia, che insegna alla Sapienza, è archeologo, scrittore di fama mondiale. Professore, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Io però voglio avere un altro punto di partenza, professore. Le voglio presentare un ragazzo di 26 anni che da Senigallia in Italia è andato per qualche mese al fianco dei curdi a Kobane. Kobane è una città tra la Turchia e la Siria, per combattere al fianco dei curdi l'avanzata dell'ISIS. Si tratta di Karim Franceschi, che ha i nostri microfoni, lo ringrazio. Buongiorno Franceschi e benvenuto. Grazie, ciao Milan. Allora, intanto Karim, perché l'hai fatto? Questa è la domanda che ti fanno tutti. Cioè, perché hai sentito l'esigenza di andare a combattere l'avanzata dell'ISIS? Beh, quella di Kobane stava per diventare una delle più grandi tragedie della storia del XXI secolo e quei civili sarebbero stati massacrati, quindi ho sentito il bisogno di andare lì e fare qualcosa immediatamente. Tu hai detto in varie interviste come mio padre partigiano ha combattuto i fascisti, davvero? Beh, quindi certo. L'hai sentita come una guerra nostra, una guerra tua? Certamente, mio padre è stato partigiano e ho combattuto nelle colline toscane e mi ha trasmesso questa eredità, questi valori. E infatti sentivo quando sono andato lì di portarmi come una parte della nostra Costituzione, quella che parla appunto dei partigiani e la resistenza. Si parla tanto e si scrive di ISIS. Tu l'hai visto in faccia, nel senso l'ISIS, i miliziani che combattono. Che cos'è l'ISIS vissuto lì, dai curdi, vissuto lì proprio dove si combatte giorno per giorno? Quello che vediamo lì è l'ISIS, il braccio armato dell'ISIS, l'esercito dell'ISIS. È anche l'ISIS che fa veramente paura, quella che scherza poco e spara tanto. E beh, le loro tattiche di combattimento e di guerra non hanno niente da invidiare agli eserciti più moderni e attrezzati. Ma si percepisce, per esempio, si parla di questo fanatismo islamico, si percepisce oppure lì sono questioni, come dire, secondarie, lì si combatte per conquistare un metro di terreno? Si percepisce assolutamente, anche perché nelle loro tattiche di combattimento vediamo questo fanatismo moltiplicato per 100, vediamo come questo loro sprezzo per la vita, questa quasi volontà. C'è la linea telefonica che è andata via. Recuperiamo la linea con Karim Franceschi. Intanto vogliamo cercare di capire che cosa voglia dire Palmira. Professor Mattia, che cos'è Palmira per noi che non la conosciamo, non abbiamo mai avuto la fortuna di esserci? Palmira è uno dei più bei campi di rovine di tutto il Mediterraneo. Si può dire che in situazioni soltanto apparentemente simili, Palmira, Petra e Leptis in Giordania e in Libia sono veramente delle gemme senza paragoni dell'archeologia dell'età romano imperiale. È un luogo spettacolare, conosciuto dagli occidentali dalla metà del Settecento, che ha affascinato visitatori e visitatori per queste sue pietre dorate che sono spettacolari all'alba e al tramonto. Ha avuto una storia interessantissima di stato cuscinetto e di luogo della polizia del deserto tra l'impero romano e l'impero dei Parti. Oggi ci sono una serie di templi, un colonnato spettacolare, un castello medievale che domina tutto il campo delle rovine, la vallata delle tombe che sono a torre e ricolme di statuaria provinciale romana di grandissimo livello. Sì, lei ne parla con molto dolore, credo in un'intervista l'abbia definita la perla del deserto addirittura, perché? Beh, è sicuramente uno dei luoghi più belli in assoluto che io abbia mai visitato, e le garantisco che ho visitato non pochi paesi di questo pianeta, soprattutto per le antichità e per i beni culturali. Palmira ha anche una situazione proprio ambientale eccezionale all'interno di questo deserto più di pietra che di sabbia, circondata da una piccola oasi estremamente verdeggiante. È veramente un luogo magico, incantato, insomma, pensare che oggi questo luogo, che è uno dei massimi luoghi del patrimonio universale, sia, possiamo dire, da un'ora all'altra potrebbe essere distrutto nelle sue gemme architettoniche più rilevanti. Fa davvero male. Cosa che non, male. Che non si può neppure capire. Ma certo, intanto abbiamo recuperato la linea con Karim, sì. Franceschi, che ricordo è andato a combattere. Quanto tempo sei stato a combattere a fianco dei curdi, Karim? Ho combattuto per 3 mesi, ho partecipato attivamente alla liberazione di Kobane, anzi ero proprio in prima linea, e poi ho partecipato alla respinta dell'ISIS finché non l'abbiamo buttati fuori dai vecchi confini delle campagne di Kobane. Ovviamente si parla molto e si racconta di guerra, fortunatamente noi facciamo parte di una generazione, in teoria anche tu, poi tu hai deciso di fare questa scelta, ma è che la guerra non l'hanno vissuta se non nei ricordi dei nonni o dei genitori. Che cosa si prova in combattimento? Cioè, ce la puoi descrivere per sensazioni la guerra? Però una cosa c'è da dirla: i nostri nonni hanno dovuto combattere per la nostra democrazia e per la nostra libertà. La Costituzione noi l'abbiamo ereditata da loro, ma loro hanno pagato il prezzo del sangue. Noi fortunatamente non siamo mai stati chiamati a doverla difendere, però non toglie che un giorno potrebbe succedere. Invece lì a Kobane è successo esattamente questo: loro hanno provato a creare una costituzione molto simile alla nostra, tra l'altro, ma dall'altra parte non erano d'accordo, li volevano schiavizzare e quindi hanno dovuto farlo. E che cosa si prova? Perché quando io dico guerra vuol dire che proprio tu sparavi, tu sei stato addestrato, tu eri in prima linea appunto a combattere. Sì, era una guerra ad alta intensità, l'ISIS ci attaccava notte e giorno senza nemmeno darci un'ora di pace, quindi si combatteva veramente a tutte le ore e in tutti i modi possibili e immaginabili, anche perché era una città e quindi i combattimenti erano molto ravvicinati. So che questo è uno degli argomenti per i quali insomma fai un po' fatica a affrontare, ma questo è il dato di fatto, è così: quando si fa una guerra si uccide anche. E ti è capitato di uccidere? Non intendo rispondere a questa domanda. Hai avuto problemi, però sai che è passata una legge sui cosiddetti foreign fighters, cioè è tutto a posto, adesso sei tornato in Italia e nessuno ti ha chiesto il perché di questa scelta? Innanzitutto questa è una legge che è stata fatta per combattere il jihadismo turistico, tutti questi che vanno a unirsi alle file dell'ISIS, sì. Non certo per quelli che tentano di fermarli, ma poi non mi definisco assolutamente un foreign fighter, sono andato lì come volontario, ma soprattutto sono andato lì portandomi i nostri valori della Costituzione italiana, quelli della resistenza, quelli della libertà e della democrazia, quindi mi definirei più quasi un foreign partisan. Foreign partisan più che foreign fighter, ma davvero una guerra nostra, ti faccio, cioè che dobbiamo sentire nostra anche noi in Italia, nelle nostre comode poltrone, nei nostri comodi posti di lavoro? Beh, certamente non l'intera guerra civile siriana, ma la guerra che stanno combattendo Kobane e nel Rojava è assolutamente una guerra nostra, anche quella che combattono per esempio nelle montagne del Sinjar per difendere le Yazide che venivano massacrate, rapite, torturate. anche quella è una guerra nostra, perché combattono per dei valori reali di democrazia, per dei valori reali di libertà, per dei valori di femminismo, e quindi come fa a non essere qualcosa di nostro, una cosa del genere? È una battaglia nostra, anche professor Mattia, è una battaglia nostra la sensibilizzazione, ovviamente si dice e si ha questo atteggiamento, ma come fanno più scalpore a volte i reperti archeologici straordinari che vengono distrutti e non le persone uccise? Non è così, lei professore ovviamente ha un occhio di riguardo, perché è il suo lavoro, quello che vuol dire il patrimonio artistico, culturale, storico di quei luoghi, è davvero, deve essere una battaglia nostra anche la tutela di tutto ciò? Vorrei dire subito naturalmente che la tragedia umana viene assolutamente prima di tutto, questo è evidente, e non direi francamente che nell'Occidente ci sia più attenzione alle statue che agli uomini, non c'è attenzione per niente né all'uno né all'altro, è questa la vera tragedia del mondo occidentale. Sono state commesse una serie incredibili di errori, a mio avviso, diplomatici, politici, strategici. Se il presidente Obama chiede 3 anni per fermare l'ISIS, e l'ISIS è alle porte di Damasco e di Baghdad, significa che sono parole al vento. La coalizione occidentale non sta bombardando l'ISIS, sta facendo qualche azione sporadica, ed è una guerra ipocrita in una situazione regionale drammaticissima, in cui ci sono delle grandi potenze economiche che finanziano barbaricamente un presunto Stato che si rifà al califfato in maniera assolutamente folle, portando dei valori, come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, portando dei valori che il mondo occidentale, ma tutto il mondo del pianeta, deve contrastare, per la barbarie umana e monumentale. Vorrei aggiungere che non è qualche cosa così di ozioso, di dotto, seguire il patrimonio culturale. La catena umanità, cultura, natura è qualche cosa che non si può rompere. Un giorno che la crisi finirà, perché tutte le crisi finiscono nella politica mondiale, noi dovremmo lasciare il popolo siriano privo dei suoi tesori, del suo ambiente. Mm-hmm. Pensi se durante la Seconda Guerra Mondiale è successo a Dresda, assolutamente, sì, ma noi fossimo privati di metà di Firenze, non saremmo più gli italiani di oggi. Questo è senza dubbio. Karim Franceschi, per concludere, c'è stato qualche momento in cui hai rischiato concretamente la vita? Beh, certamente. Quel tipo di guerra lì succede quasi tutti i giorni. Comunque sì, ci sono stati momenti in cui l'ho rischiata più di altri. E in conclusione, cosa risponde a chi, e ci scrive via anche sms questa domanda, dire: ma se l'avessero rapito cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto intervenire, avremmo dovuto pagare, avremmo dovuto... insomma, la domanda secondo me è anche un po'... si vuole anche provocatoria, però molti ascoltatori ce la pongono, eh. Ti sei posto in questa situazione, cioè dire, dove fosse andata male, fosse caduto nelle mani dell'ISIS? Se fosse caduto nelle mani dell'ISIS, non avreste visto vestito in tutta arancione, probabilmente in una delle proiezioni di Al-Hayat Media Center. Mm. Ma una cosa che sinceramente avrei preferito farmi saltare in aria piuttosto che fare quella fine lì. Perché effettivamente non sarebbe stata una bella fine. Allora io vi ringrazio intanto, ringrazio Karim Franceschi, che voglio ricordare a 26 anni ha deciso volontariamente di andare a combattere 3 mesi a Kobane a fianco dei curdi per fermare l'avanzata dell'ISIS. È stata una scelta che ha fatto in nome, ci ha detto, anche della difesa della Costituzione italiana, ricordo del padre partigiano, a dire questa è una battaglia che andava fatta. Grazie per essere stato con me, Karim Franceschi, così come ringrazio il professor Paolo Mattia, che ci ha spiegato con la solita lucidità che cosa vuol dire e perché è importante anche tutelare e avere attenzione per il patrimonio artistico, culturale, storico, archeologico che l'ISIS sta distruggendo adesso a Palmira, ma lo ha fatto anche nelle altre città che sono state conquistate. Devo andare in pubblicità, poi avremo dopo la pubblicità lo scrittore intellettuale Harry De Luca. È sotto processo, lo sapete probabilmente, a Torino, con l'accusa di istigazione a delinquere per avere scritto delle cose, in particolare la frase «la TAV va sabotata». Chiacchiereremo con Harry De Luca tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Made in Steel, l'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. E allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sono le 8:39 minuti e sapete che c'è un processo in corso a Torino, ne hanno parlato anche ieri i giornali, il processo nei confronti di una persona che è accusata di istigazione a delinquere per le frasi dette, scritte qualche tempo fa. Le frasi precisamente contestate sono queste: la TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti. Queste credo anche altre frasi. Il protagonista della vicenda, credo suo malgrado, è Harry De Luca, scrittore, intellettuale. Harry De Luca, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Allora, intanto come sta? Tutto bene? Ha passato il 65esimo compleanno a testimoniare, da imputato. Questo. A rispondere delle mie parole incriminate con delle altre mie parole. E questo sì. Lei dice in pratica di non aver invitato nessuno a compiere alcun tipo di reato, però proprio lei, scrittore, non disconoscerà l'importanza delle parole, per l'appunto, no? E allora non c'è un nesso tra l'importante, tra le parole che lei dice o scrive e anche il seguito che ha e magari le azioni di qualcuno che quelle parole le mette in pratica? Sì, lo stesso nesso che c'è tra i libri di Reinhold Messner sull'alpinismo e gli alpinisti che vanno a fare delle imprese alpinistiche dopo aver letto quei libri, proprio lo stesso nesso. Lo stesso, lei dice. Reinhold Messner è responsabile delle morti in montagna di quegli alpinisti, come io sono responsabile di eventuali istigati, che però non mi sono stati presentati in questo processo, cioè non c'è nessun testimone contro di me che dica sì, io sono stato istigato. Però ci sono state delle persone, lei lo sa, che sono state anche condannate per sabotaggi, eccetera. Cioè, di fronte a queste persone, lei con che parole si rivolgerebbe? Avete sbagliato? Persone condannate per sabotaggi? No. Questo voce di reato non c'è. Beh, se non sbaglio, per esempio, resistenza pubblica ufficiale, credo. Alcuni sono stati condannati per il danneggiamento di un compressore, hanno preso più di 3 anni di prigione e ne hanno passati più di uno in regime di detenzione speciale, pur essendo incensurati, sì, perché gli avevano contestato una inesistente aggravante di terrorismo. È vero. Naturalmente caduta, però intanto si sono fatti un anno e rotti di detenzione speciale. Beh, diciamo, sono stati, adesso poi la tipologia di reato, non so, sono stati condannati per aver assaltato dei cantieri del TAV. Danneggiamento. Sì. Ecco, queste persone hanno sbagliato? Secondo lei? Queste persone sono state condannate, ma hanno sbagliato? Beh, sì, certo, perché non è che si ferma la TAV con un danneggiamento. Quella TAV, quella linea di alta velocità fasulla in Val di Susa, dico fasulla perché su quella linea che vorrebbero costruire risparmierebbe poco meno di un'ora sulla tratta Torino-Lione, dunque si tratta di un treno a modesta accelerazione e non ad alta velocità. Bene, quella linea a modesta accelerazione è stata sabotata nel corso di questi anni dalla unanimità, più di 20 anni dalla unanimità e dalla fermezza e dalla resistenza civile di quella vallata, qualche danneggiamento. Questo vuol dire essere contro la TAV, è una posizione legittima, ci sono molti che la criticano, altri che l'appoggiano la TAV, ma qui diciamo, si discute però di altro, cioè se le sue parole appunto possono aver istigato qualcuno a metterla in pratica praticamente. Ma lei sta almeno dalla parte di questi ragazzi e ragazze condannate oppure cioè prova empatia nei loro confronti? Io provo empatia per tutti i prigionieri, per tutti nei confronti di tutti quelli che stanno in prigione. Che vuol dire che non usato... ci posso fare niente, insomma, è una mia debolezza di origine. È una debolezza di origine. Perché lei ha detto che la TAV cadrà come Gerico e non come il Palazzo d'Inverno? Cioè, appunto, spieghiamo, insomma, che non verrà presa d'assalto come il Palazzo d'Inverno dai russi, ma cadrà come la biblica Gerico. Sì, perché non verrà espugnata da un'aggressione a mano armata, ma verrà fatta crollare da un coro di unanime di voci che la circondano. Questa è l'immagine che ho io della fine di questa impresa balorda che è quella di costruire quel tunnel. Sì, però lei l'ha detto in tribunale, sembrava un po' come dire prendere le distanze, appunto dire non voglio dire a nessuno di assaltarla, ma voglio dire criticatela. Che poi prima o poi cadrà. Ecco, come. Sì, io sono convinto che perché no, quell'opera non la faranno. come non ne hanno fatte centinaia di grandi opere pubbliche, sì, in questo paese. Non sarebbe nessuna novità, anzi sarebbe proprio un modello di sviluppo quello di spendere denaro pubblico per opere che non vengono portate a finitura. Però mi perdoni Henry De Luca, scrivere la TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, cioè la frase è abbastanza chiara, come la vuole interpretare? È evidente che la TAV non si sabota con le cesoie. Le cesoie servono a tagliare le reti e entrare nei cantieri, no? Le cesoie servono a uso di giardinaggio, oppure possono servire in quel caso per tagliare delle reti, cioè delle recinzioni che erano state messe in maniera abusiva, poi non potevano essere messe lì, e quelle recinzioni, le cesoie servivano come atto simbolico a ripristinare la legalità. Le faccio ascoltare uno che sicuramente non la pensa come lei, è Filippo Facci, lo conosce, giornalista di Libero? Bisogna, ma se lei crede. Vabbè, sì, facciamolo ascoltare, perché era da Virus, da Nicola. Il cassetto l'ho già preso, quindi sono a posto. È a posto, va bene, senta Facci. Nel mese successivo a quando il cattivo maestro Henry De Luca si è detto favorevole al sabotaggio, guarda caso ci sono stati quattro attacchi a imprese con mezzi incendiati, quindi il limite c'è, il limite è quello stabilito dalla legge per cui chi fa istigazione a delinquere va processato. Ecco, questa è la posizione, cattivo maestro intanto la chiama, e poi insomma dice, dopo le sue frasi un mese dopo ci sono stati degli assalti. No, il grosso dei danneggiamenti di quel periodo abbastanza intenso sono avvenuti prima. Infatti quando il dirigente dell'ufficio politico della Questura di Torino è stato interrogato dal giudice nel mio processo, il giudice gli ha chiesto se sono aumentati i casi di episodi di violenza nei confronti del cantiere, i danneggiamenti, il funzionario ha risposto no. No. Dunque quello che dice quel signore è una parziale versione dei fatti. Ma è vero che lo vuole querelare? Cioè, oggi Facci scrive su Libero che, no, non lei più che altro, ma Paola Porrini Bisson, che è vicepresidente della Fondazione Henry De Luca e forse sua manager o presunta manager, la definisce così Facci, dice mi ha minacciato di querela per queste frasi. Non mi risulta, ma non intendo, che ci devo fare? Lo vuole querelare o no Facci? Ma figuriamoci, ha detto un'opinione, rispondere informazioni parziali o false, quindi. Ha detto un'opinione sul nesso casuale, che è un po' l'opinione della procura e non è l'opinione sua, insomma, ha detto non è neanche l'opinione in quel caso del funzionario dell'ufficio politico della Questura di Torino. Senta, lei De Luca appoggia anche i No Expo, ha visto le contestazioni? Sì. Le appoggia i No Expo, ma quelle contro, pacifiche. Sono contro quella contro lei, ma lei è contro tutto, è contro la TAV, contro l'Expo, che dovremmo tornare al Medioevo, non fare nulla. L'Expo è una parata di che vogliono parlare della fame del mondo da sazi, cioè non senza nemmeno la presenza né degli affamati né dei coltivatori diretti, dunque è una vetrina balorda. Del resto un illustre critico letterario, un critico d'arte, ha detto che il padiglione italiano dell'Expo andrebbe bombardato, cioè mi sembra una istigazione alla artiglieria. Anche questa non male come istigazione, effettivamente. Quindi lei appoggia i No Expo, però quelli pacifici, non mi dica quelli che hanno bastonato il vicequestore di Milano. Quelle sono cose che non servono a nulla. Serve la voce. È la potenza della parola che fa che corrode l'arroganza del potere. E quindi insomma sabotare la TAV ha un significato, come dire, nobile, giusto e necessario, fatto da una comunità che da più di 20 anni si batte ed è riuscita finora a ritardare, impedire, intralciare, dunque sabotare quella linea. Perfetto, però non con azioni violente, è questa la questione, cioè l'importanza è non con azioni violente, sabotarla non servono a nulla. Marce della pace, non lo so, stendersi davanti. Io ho partecipato a innumerevoli manifestazioni in Val di Susa come cittadino oltre che come scrittore. Per concludere De Luca, ieri avevamo ospite Vincino, spesso io lo ospito, un caro amico Vincino, lei lo conoscerà, no? Ai tempi mi ha detto ai tempi di Lotta Continua Henry De Luca, che era responsabile del servizio d'ordine, era tanto tempo fa ci ha raccontato Vincino che lei aveva dei cani e tra questi un mastino napoletano dal nome Assassino. Ma è vera questa cosa? Questo Milano era presso la redazione del giornale Lotta Continua. Ah, ecco. C'erano due cani. Quel cane si chiamava Assassino, ma quel nome non gliel'ho dato io. No, perché ci ha messo questa immagine un po' inquietante all'epoca col cane. Sì, per la completezza dell'informazione, il nome non gliel'ho dato io, e comunque non era mio, era il cane della redazione, stava alla guardia della redazione del giornale Rotta Continua. Accidenti, mastino napoletano assassino, effettivamente. Chi è che mai avrebbe avuto l'idea di prendere la redazione di Rotta Continua? Vabbè, l'ultima cosa, lei segue la politica, le piace Renzi? È di sinistra, De Luca? No. Per carità, proprio deciso, zero, niente ha di sinistra. No, e perché dovrebbe? Non ne ha bisogno per nulla. No, ma come? È leader del Partito Democratico, veda un po' lei. Appunto, sì. Beh, la sinistra dov'è? Cos'è? Vendola la sinistra per lei? No, no, qua in questo paese la sinistra non è rappresentata. Esiste, sta in tanti posti diffusi, ma non ha una rappresentanza politica ufficiale. Nessun politico si può dire di sinistra, secondo lei? Nessuno? Secondo me no. No. Va bene, la ringrazio Henry De Luca, buona giornata e grazie per essere stato con noi. Henry De Luca, scrittore, che è a processo per istigazione a delinquere a Torino, si difende così e dice: non ho mai detto a nessuno di compiere alcun reato, sono solo parole le mie, la forza delle parole, il sabotare la TAV. Andiamo al traffico. Lavoratori! Eccoci qui il venerdì a concludere con i nostri lavoratori che ci chiamano e che ci scrivono, meglio, a 24 mattino e radio24.it. Oggi è un lavoratore che mi interessa particolarmente, è Federico Peduzzi, medico degli alberi, delle piante. Come, Federico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. No, mi interessa tantissimo perché mi è appena morta una camelia e mi è appena morta una fotinia. E mi dispiace. Anche a me dispiace, rido in realtà, ma ho quasi pianto, dispiace per loro oltre che per me. Federico, che vuol dire il medico delle piante? Beh, senti, è un modo di dire che una persona, insomma, io poi sono un dottore agronomo, insomma un tecnico abilitato, però è una persona che si prende cura degli alberi, sì. E che si occupa di cura e stabilità delle piante, ecco, valutando l'albero nel suo complesso. No, no, ma infatti lo sappiamo, è importante, per esempio la cronaca racconta della Puglia, gli ulivi, no? Forse la vicenda che conoscono tutti, la xylella. Certo. No? Certo. Tu hai studiato quella vicenda, avresti una tua ricetta? Allora, senti, le ricette è giusto che le dia... No, non sono facili, e poi ci sono organi tipo gli enti di ricerca preposti a darle. È una faccenda complessa, però quando non sappiamo bene come combattere un patogeno è bene eradicarlo, cercare di eradicarlo per evitarne la diffusione. Questo sì. Quindi ciò che viene detto, insomma, dagli scienziati è ciò che deve essere purtroppo fatto. Ma è così difficile avere il pollice verde? Cioè, da cosa si distingue? Quando si dice ho il pollice verde, che vuol dire? Perché ad alcuni le piante muoiono e ad altri no? Non vuol dire assolutamente nulla, secondo me. No, vabbè, diciamo che ci sono, in generale, se uno si prende cura degli alberi e delle piante, ha delle buone probabilità di dargli una mano. E però per curarle, ogni pianta davvero ha bisogno della sua cura, l'acqua, non l'acqua, il sole, non il sole. Certo, a volte c'è un eccesso di cura, a volte il paziente è troppo vecchio e quindi se c'è un accanimento... A volte ci sono problematiche che non si capiscono e ci si deve affidare a degli esperti. Ma tu con chi lavori? Cioè lavori con chi ha le piantagioni? Non è che vai in casa di uno a dire c'ho una pianta, no? No, al contrario. Io nel senso mi occupo proprio di alberi in ambiente urbano, sì. E per lo più da clienti privati. Quindi diciamo... Io mi occupo di curarli, tra l'altro parlavo dell'endoterapia come uno dei metodi possibili, cioè? No, di cura. È una specie di flebo, per farsi capire. Flebo alle piante, da dove? nella corteccia, immagino. Sì, si fa un forellino molto piccolo, si iniettano insetticidi in questo caso, oppure sostanze in grado di stimolare le difese interne delle piante. Ah. Che vengono trasportate tramite i vasi linfatici alle foglie, alle radici, insomma, ragazzi, si dà una flema, mano, una flema, come è un essere come vivente, quindi voglio dire, è un essere vivente, insomma, un organismo vivente più che altro. E quindi, la flebo si fa. E quindi intervieni, non so, magari ti chiamano anche i comuni, cioè abbiamo dei cipressi che stanno morendo. Ho provato anche a lavorare con dei comuni, c'è la possibilità di farlo, soprattutto sulle valutazioni di stabilità, più che è fantastico tutto ciò. Il medico degli alberi, l'abbiamo tradotto così, ma insomma non è proprio in realtà, il lavoro è un altro. Federico, fatti un po' di pubblicità come al solito. Hai un sito, hai qualcosa da pubblicizzare? Sì, ho un sito, è www.studiodendron.it. Un po' complicato, è Studio Dendron. Dendron da rododendro in greco. È da lì che viene il rododendro. Io ho studiato il latino. Ho fatto il greco al classico. Vedi che ignoranza la mia invece. Studiodendron.it. È Federico Peduzzi, ma come al solito scrivete a noi e noi vi metteremo in contatto con Federico. Federico, tu dove sei? Sei toscano, mi sembra di capire. Da... Sì, sono fiorentino. Fiorentino, oh, ma tutti da Firenze, tutti da Firenze. Ecco perché il lavoro vi manda Renzi, vi manda Renzi, vi manda Renzi, vi manda tutti Renzi. Io lo so, scherzo, ovviamente. Grazie a Federico, concludiamo con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Carmelo Lauricelli. Signor Wolf, risolvo problemi. Ne abbiamo uno.